perfetto giorno di Simone Spezia. Il premier incaricato Gentiloni incontra le forze politiche. Oggi dovrebbe arrivare la lista dei ministri, squadra in gran parte confermata. Si ipotizza Alfano agli esteri, un reincarico alla Boschi. Monte dei Paschi pronti ad ogni misura per mettere in sicurezza la banca, dice l'amministratore delegato. Il tesoro fiducioso sulla riuscita di un'operazione di mercato. Attentati in Turchia, le vittime salgono a 44, blitz contro il partito curdo, 118 arresti. Egitto, il Papa telefona al patriarca copto dopo la bomba contro la chiesa. Qualità della vita nella classifica del Sole 24 Ore, Aosta prima e Milano seconda, in coda Vibo Valencia e Reggio Calabria, scala 40 posizioni Pordenone, ne perde altrettante Olbia. Calcio sorteggi di Champions, il Napoli agli ottavi con il Real, la Juventus con il Porto per il campionato questa sera, Roma-Milan. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere via mail. In apertura dunque la politica con le consultazioni di Gentiloni per la formazione del nuovo governo. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, l'intenzione di Paolo Gentiloni è quello di rimanere al governo finché avrà la fiducia. Questo è quanto ha detto il premier incaricato durante le consultazioni per la formazione del nuovo governo a Montecitorio, e Gentiloni dovrebbe salire al Quirinale stasera e sciogliere già la riserva, ovvero presentare la lista dei ministri. Intanto il PD si riunisce in direzione, c'è anche il segretario Matteo Renzi in abiti casual e tra un'ora esprimerà il voto sul governo che sta per nascere, lo dice il presidente Matteo Orfini. Poi si parlerà di tutto il resto, non ci saranno sorprese. Il vice segretario Lorenzo Guerini ribadisce l'appoggio al governo Gentiloni e i Dem, dice, non hanno paura del voto. Intanto in direzione interviene il candidato della minoranza Roberto Speranza. Vedo ancora troppa arroganza, dice, serve presto un congresso, il PD o cambia rotta o muore. E anche Francesco Boccia preme per il congresso, ci saranno tanti candidati alla segreteria, il PD è fatto di tante personalità. Domenica l'Assemblea Nazionale Dem, che deve appunto decidere la data del nuovo congresso, a quel punto saranno chiari i candidati e poi gli equilibri interni al partito per preparare le liste e andare ad elezioni. A te Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento sulle consultazioni di Gentiloni. Il fronte dell'opposizione con Andrea Viali. Andrea, eccoci. Sì, buongiorno Simone. Non ci sarà nessun sostegno al nuovo governo da parte delle opposizioni, e a ribadirlo a Gentiloni stamattina è stata anche la delegazione di Forza Italia. Forza Italia che da un lato annuncia un'opposizione senza sconti, ma dall'altro sollecita anche un confronto il più ampio possibile in Parlamento sulla nuova legge elettorale. Sentiamo cosa ha detto al termine dell'incontro il capogruppo azzurro al Senato Romani. Da domani, in accordo con Lega Nord e Fratelli d'Italia, ci incontreremo e cominceremo a discutere della legge elettorale nel nostro campo, ma non solamente loro, anche le altre forze che si riconoscono nel campo del centrodestra, e cercheremo di capire quale può essere una piattaforma comune al centrodestra. Hanno invece disertato queste consultazioni Lega Nord e Movimento 5 Stelle, che chiedono di mettere mano subito alla legge elettorale e minacciano di scendere in piazza se non si andrà quanto prima al voto. Una posizione questa condivisa anche da Fratelli d'Italia, la cui delegazione stamattina ha invece incontrato Gentiloni. Sentiamo Giorgia Meloni, poi la linea può tornare allo studio. Noi consideriamo e considereremo intollerabile un gioco delle tre carte ai danni degli italiani. Sostanzialmente Renzi, che fa finta di dimettersi, che mette a Palazzo Chigi quello che è un suo prestanome, stesse facce, stessa maggioranza, stesse politiche, perché gli italiani hanno bocciato quelle politiche. Questo è il quadro dunque dalle opposizioni. Intanto già si ipotizza la squadra di governo. Se si guardano, soprattutto si guarda i prossimi appuntamenti nazionali e internazionali. Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Dobbiamo necessariamente affidarci alle indiscrezioni che circolano in queste ore per cercare di dare un volto ad ogni casella del futuro governo Gentiloni. Ecco perché in alcuni casi il condizionale è d'obbligo. Tutto, lo ricordiamo, è legato ai delicati equilibri della maggioranza che si appresta ad appoggiare questo esecutivo. Partiamo da quelle che dovrebbero essere le certezze: Padoan all'economia, Orlando alla giustizia, Pinotti alla difesa, Del Rio alle infrastrutture e Calenda allo sviluppo economico. Probabile conferma anche per la Lorenzina la salute, Franceschini ai beni culturali, Costa alla famiglia, Martina all'agricoltura. Le maggiori incertezze sono per interno ed esteri. Al Viminale potrebbe restare Alfano, che però sarebbe tentato da un'esperienza alla Farnesina. Qualora vi fosse questo spostamento agli interni, potrebbe andare Marco Minniti. Se Alfano resta al Viminale, per gli esteri sarebbe pronto Fassino. Quest'ultimo potrebbe andare anche alla funzione pubblica, qualora non vi fosse la conferma della ministra Madia. Per la Boschi, o conferma i rapporti con il Parlamento o poltrona da sottosegretario. Luca Lotti, fedelissimo di Renzi, sarebbe inamovibile come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. In uscita la Giannini dall'istruzione, per quel ministero vi potrebbe essere l'esordio in maggioranza dei verdiniani con Pera. Tra le priorità del governo Gentiloni, scontata la legge elettorale, quindi il nodo Monte dei Paschi di Siena, e poi il provvedimento sul terremoto giovedì, quindi il primo impegno internazionale al Consiglio europeo. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Come sentivate, tra i dossier in campo c'è evidentemente quello del Monte dei Paschi di Siena. Gli aggiornamenti di oggi con la nostra Deborah Rosciani. Deborah, buongiorno. Simone, buongiorno. Allora sì, l'operazione di mercato resta ancora in piedi come ultimo, anche se difficile, tentativo per evitare la nazionalizzazione di Banca Monte dei Paschi. Le notizie che sono arrivate ieri al termine del Consiglio di Amministrazione Fiume oggi spingono il titolo in borsa, che ha guadagnato quasi 8 punti percentuali, adesso è comunque a più 6,41% in una giornata complessivamente positiva per il mercato. Come dicevamo, il Consiglio di Amministrazione di ieri ha deciso di proseguire sulla strada della ricapitalizzazione al momento senza intervento pubblico, che rappresenta comunque un piano B che è preparato appunto da parte del Tesoro. L'idea è quella di rastrellare questi 5 miliardi necessari alla banca attraverso la conversione delle obbligazioni subordinate che sono in questo momento in mano a 40.000 risparmiatori che secondo le stime potrebbero contribuire con 2,16 miliardi di euro, che si sommerebbero al miliardo già raccolto con la fase precedente appunto presso investitori istituzionali, capitali che a loro volta si dovrebbero sommare ad un altro miliardo che dovrebbe iniettare il Qatar come famoso Anchor Investor, investitore Ancora, come è stato ribattezzato in questi giorni. Per la parte residuale, l'altro miliardo che manca, si passerebbe naturalmente al collocamento sul mercato. Quindi al momento la strada ipotizzata è questa, ribadita anche dall'amministratore delegato Marco Morelli, che ha inviato un messaggio video stamattina a tutti i suoi dipendenti, appunto provando naturalmente a rassicurarli tutti, però le incognite sono ancora molte, perché per la verità molte banche d'affari vedono difficile una difficile attuazione appunto di questo di tutto questo intervento così complesso di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Per cui, Simone, al momento la situazione è questa. In ogni caso, il titolo stamattina Piazza Affari prova a recuperare tutta quella strada che aveva perso dopo il no della Banca Centrale Europea alla proroga per l'aumento di capitale, appunto proroga che era stata chiesta fino al 20 gennaio, invece la banca deve farlo almeno entro il 31 dicembre. È tutto. E grazie dunque a Deborah Rosciani anche per questo aggiornamento. Ci spostiamo all'estero, adesso andiamo in Turchia. Arresti e stato d'emergenza prolungato dopo gli attentati. Almeno 198 membri dell'HDP, il partito di opposizione filo curdo, sono stati arrestati oggi in Turchia con l'accusa di avere legami con il PKK. Le operazioni condotte ad Istanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa e Mersin sono scattate dopo l'attentato di sabato sera. Tra gli arrestati ci sono i responsabili provinciali dell'HDP di Istanbul e Ankara e diversi sindaci. Nei mesi scorsi erano già stati arrestati altri rappresentanti del partito, come il sindaco di Diyarbakir e soprattutto i copresidenti dell'HDP, Selahattin Demirtas e Figen Yüksekdag. Nel frattempo le vittime dell'attentato di sabato ad Istanbul sono ormai più di 40, ma le condizioni di alcuni degli oltre 150 feriti sono critiche. Intanto l'aviazione turca ha bombardato ieri le postazioni del PKK nel nord dell'Iraq. Oggi i jet di Ankara hanno invece colpito, secondo fonti dell'esercito, oltre 130 obiettivi dell'ISIS in Siria. I raid di ieri sul nord dell'Iraq sono arrivati a poche ore di distanza dalla rivendicazione dei Falchi per la libertà del Kurdistan, il TAK, gruppo armato nato da una costola del PKK che si è assunto la responsabilità dell'attacco di sabato. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Ed è stata bloccata, stando a fonti russe, l'avanzata dello Stato Islamico a Palmira, ma i jihadisti si sono presi diversi villaggi e giacimenti a sud-ovest della città. Sulla città patrimonio dell'umanità, ve l'abbiamo raccontato, si sono appunto nuovamente scatenati gli uomini dell'ISIS provenienti dalla zona di Raqqa. In Egitto, intanto, è risalito l'allarme dopo l'attentato che ha colpito una chiesa e oggi il Papa ha telefonato al patriarca copto. Cristiani nel mirino, in Egitto. Durante la messa delle 10, ieri, nella cappella di San Pietro e Paolo, adiacente alla cattedrale ortodossa di San Marco al Cairo, è esplosa una bomba. 25 fedeli copti egiziani sono morti, altri 49, in maggioranza donne e bambini, sono rimasti feriti. È il pensiero della minoranza cristiana del paese, che rappresenta circa il 10% della popolazione, va all'altro attentato nel 2010, quando venne colpita un'altra chiesa ad Alessandria d'Egitto. Qualche rivendicazione poco credibile allora, nessuna rivendicazione per l'episodio di ieri. E tuttavia la minoranza cristiana del paese si sente nel mirino. Dopo aver appoggiato nel 2013 l'allora ministro della difesa al-Sisi per la deposizione e l'arresto dell'allora presidente Mohamed Morsi, fratello musulmano eletto un anno prima. Nel 2014 al-Sisi fu poi eletto presidente dell'Egitto con un grande consenso elettorale al quale i copti avevano dato un forte contributo. Oggi però non si sentono protetti e lo dimostra la protesta repressa dalla polizia davanti alla chiesa dell'attentato. Il capo dello Stato ha proclamato un lutto nazionale dei 3 giorni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stata pubblicata oggi la classifica della qualità della vita nelle città italiane del Sole 24 Ore. Sentiamo. L'indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, rinnovata e potenziata, emette i suoi verdetti. La regina della 27esima edizione è la provincia di Aosta, mentre al 110° e ultimo posto troviamo, come al solito, un'area del sud. Stavolta tocca alla calabrese Vibo Valentia. La vittoria del piccolo territorio alpino, che si era già affermato nel 1993 e nel 2008, è l'ennesima conferma delle buone performance delle realtà di non grandi dimensioni appartenenti al profondo nord. Un'attitudine resa evidente anche dal terzo posto di Trento, dal quarto di Belluno, dal quinto di Sondrio, dal settimo di Bolzano e dal nono di Udine. Ma le zone metropolitane hanno a loro volta rappresentanti che sanno eccellere. Milano conferma il secondo posto del 2015, mentre Firenze e Bologna sono rispettivamente sesta e ottava. Buono anche il 13° posto di Roma e provincia, mentre il sud ribadisce tutte le sue difficoltà anche con le deludenti prestazioni di Palermo 99esima e Napoli quart'ultima sul gradino numero 107. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questa dunque la classifica delle città, a proposito di città e a proposito di Napoli, Carlo, ci sono i sorteggi di Champions e sì. Pesca il Real, eh? Non è andata benissimo a Napoli, ha pescato il Real Madrid per l'appunto, Real Madrid che era arrivato secondo nel suo girone, piccola consolazione e forse un briciolo di speranza per i napoletani, giocherà il Napoli la seconda partita al San Paolo. È andata decisamente meglio per la Juventus, che ha preso il Porto, avversario decisamente morbido e superabile. Poi per quanto riguarda le altre, ci sono il Siviglia contro l'Ester di Ranieri, Paris Saint-Germain, Barcellona è decisamente un confronto interessante per essere un ottavo di finale. Benfica, Borussia Dortmund, Arsenal, Bayern di Monaco e Monaco, Manchester City. Questo ha detto l'urna della Champions League. Quella del campionato dice invece che la Juve, nel segno di Higuain, vince un derby estremamente equilibrato ed estremamente bello. In serata l'Inter, pur tra silenzi, contestazioni, striscioni ostili, batte 2-0 il Genoa con doppietta di Brozovic. E poi questa sera c'è una partita che stiamo tutti aspettando, cioè Roma-Milan, per definire l'inseguitrice. Ieri Napoli ha dilagato a Cagliari con tripletta di Mertens vincendo 5-0. La classifica sta assumendo un po' le fattezze che tutti ci aspettavamo. Allora, ne parleremo ovviamente in tutti i convocati a partire dalle 14, Carlo, e dunque è là che ci ritroviamo. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia, e lo iniziamo proprio per parlare di qualità della vita, della classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore. Andremo non nella prima e nell'ultima città, ma nelle due città che hanno guadagnato e perso rispettivamente più posizioni, i più 40 e oltre di Pordenone e il meno 40 e oltre di Olbia. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della situazione politica con le consultazioni che stanno procedendo da parte del premier incaricato Gentiloni, abbiamo parlato di Monte dei Paschi, abbiamo parlato degli attentati in Turchia e di quelli in Egitto. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo prendendo spunto oggi dalla classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore che trovate oggi in edicola. E come vi diciamo prima del traffico, non andremo dalla prima e dall'ultima, ma andremo invece da quelle che hanno guadagnato un po' più di posizioni, ma soprattutto andiamo tra quelle che sono andate meglio. Quattro province, conta il Friuli Venezia Giulia, e sono Udine al nono posto, Trieste al decimo posto, Pordenone al 17°, Gorizia al 19°, tra l'altro tutte a parte Gorizia che guadagnano un buon numero di posizioni. Enzo D'Antona, direttore del Piccolo di Trieste, buongiorno direttore, ciao. Buongiorno. Allora, che succede secondo te? Beh, succede che si afferma un modello di welfare, sono tutte città in cui la spesa sociale pro capite è molto alta, in alcune, per esempio nel caso di Pordenone, abbiamo in più un tasso di criminalità bassissimo, un grado altissimo di sicurezza sociale, nel caso di Trieste invece abbiamo la spesa sociale pro capite più alta d'Italia, la seconda è Milano, la prima è Trieste. Quindi direi che il segreto di queste città del Friuli Venezia Giulia è appunto questo, cioè la, ovviamente, come dire, c'è anche da considerare che sono portate in su dal prodotto interno lordo, certo. la cui efficacia come indicatore di benessere è abbastanza dubbia, come sappiamo. Però sostanzialmente sì, mi pare vedere dalla disaggregazione dei dati, degli indicatori, mi pare di capire che principalmente sì, tutto questo successo è dovuto al modello sociale, sì, al welfare più avanzato e alla sicurezza. Ascolta direttore, allora nei primi 10 abbiamo, abbiamo anche Aosta, Trento, Bolzano e poi appunto Udine e Trieste. Il sospetto che l'autonomia c'entri qualcosa, l'autonomia appunto delle regioni e delle province autonome in questo caso c'entri qualcosa, c'è, è forte, no? Sì, però questa teoria sarebbe immediatamente smentita dalle ultime posizioni che vedono le città della Sardegna o della Sicilia, no, tutte in posizione ultima. No, per esempio Medio Campidano, sto guardando che ha perso tre posizioni dal 97° posto, è anche l'ultima per prodotto interno lordo. Direi che le cause sono più economiche che politiche. Che politiche, dici tu. Allora io ti ringrazio, grazie Enzo D'Antona, direttore del Piccolo. Prego. Di Trieste. Abbiamo in realtà già in linea il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, però prima voglio salutare quello di Olbia, Settimo Nizzi. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Perché la provincia di Olbia, nella classifica del Sole 24 Ore, ha perso 53 posizioni, è un enorme, un calo enorme, È disarmante a vederlo così con i dati, con gli indicatori che sono stati utilizzati. C'è crisi vera, però aver perso tutte queste posizioni, bisognerà quanto prima entrare nel merito. Che ci sia un aumento della disoccupazione è innegabile, che ci sia una riduzione del lavoro in generale, anche del commercio, nonostante tutto c'è un aumento delle persone, dei turisti che arrivano e partono, per cui c'è questa grossa discrepanza sulla quale naturalmente bisogna iniziare a discutere. Perché poi ovviamente la classifica del Sole 24 Ore, lo ricordiamo e poi lo diciamo anche agli ascoltatori, se volete vedere com'è messa la vostra provincia, quali sono i dettagli, li trovate tanto sul sito del Sole 24 Ore quanto sul Sole 24 Ore oggi in edicola. Bisogna dire, non tiene conto solamente degli aspetti economici, perché il fatto che la faccia del Sole 24 Ore, no, può trarre in inganno, ma ci sono anche indicatori ambientali, di welfare, di demografia, quindi di giustizia, no, e di giustizia, no, sindaco? Assolutamente sì, anche da quel punto di vista. Il fatto che la provincia sia stata ci sia stato un accorpamento delle vecchie tutto verso le vecchie province, perciò anche la provincia di Olpiatempio adesso è stata, per così dire, accorpata in quella che era la provincia di Sassari, non ha certamente favorito. Ci sono un sacco di soldi che dovevano essere spesi in questo territorio, invece con questi accorpamenti i soldi poi non vengono spesi e vanno ad essere accumulati, non spesi, e poi non si possono più spendere, perché meno spendi, meno il patto di stabilità, il vecchio patto di stabilità ti dà la possibilità di... Sì. Di spendere. Ricordiamo, Sindaco, tra l'altro, lei in carica, per correttezza, lei in carica da quattro mesi, cinque mesi, insomma, ecco, quindi insomma, non è che porta il peso delle responsabilità eventuali di quello che è successo. Da fare per cercare sì. di migliorare. Sì. Comunque questo è un punto importante sul quale naturalmente dovremmo tutti riflettere. La ringrazio, grazie a Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, e andiamo da appunto Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone. Buongiorno, che di posizione guadagnate 43, è il luogo che ne ha guadagnato, la provincia ne ha guadagnate di più. Ciriani, buongiorno. Buongiorno. Allora, già sentiamo il direttore del Piccolo che ci diceva molto pesa sicuramente un tasso di criminalità che è tra i più bassi d'Italia, ma probabilmente c'è anche molto altro, no? Beh, sicuramente. Il tema della sicurezza qui non è quello prioritario, anche se viene gestito con grande oculatezza. Devo dire che la fortuna di questo territorio non è ascrivibile esclusivamente alle politiche degli amministratori, ma anche alla qualità della nostra gente. Insomma, qui c'è grande decoro, c'è la gara che tiene bene i parchi, che tiene pulite le strade, che tiene pulite le proprie case. Quindi è una somma di elementi positivi che è legata poi alla qualità sanitaria, ha una vitalità culturale straordinaria, nonostante siamo un territorio molto piccolo, ha una gestione dei siti sociali all'avanguardia, abbiamo sperimentazioni che sono diventate oggetto anche di analisi internazionale, quindi questi elementi qualificano ovviamente un territorio e fanno fare questi salti in avanti. La ringrazio, grazie anche a lei, grazie a Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, come sapete andiamo in pausa un po' in anticipo di solito il lunedì, perché la puntata è un po' più corta. Andiamo in pausa, tra un attimo sentiamo che cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo. Tra le altre storie che vi racconteremo è quella di un'aggressione animalista ad un cacciatore, ad un gruppo di cacciatori, e adesso l'uomo che è stato aggredito è in ospedale, rischia un'operazione, ha un problema ad una vertebra. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il premier incaricato Gentiloni incontra le forze politiche. Oggi dovrebbe arrivare la lista dei ministri. Monte dei Paschi pronti ad ogni misura per mettere in sicurezza la banca, dice l'amministratore delegato. Attentati in Turchia, le vittime salgono a 44. Blitz contro il partito curdo, sono 235 al momento gli arresti, ed è notizia di pochi istanti fa. Qualità della vita nella classifica del Sole 24 Ore, Aosta prima, Milano seconda, in coda Vibo Valencia e Reggio Calabria. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Non è il primo caso, a dire il vero, ne avevamo già registrato qualcuno in Liguria e adesso siamo nelle campagne del Mantovano, dove un uomo, o meglio un gruppo di cacciatori, è stato aggredito da degli animalisti incappucciati, e c'è una persona che ha riportato addirittura una frattura alla vertebra. Questa persona è in linea con noi, Giuliano Zanotti, che è un cacciatore, appunto, anche se in realtà eravate là con le reti. Zanotti, buongiorno. Buongiorno. Parliamo con lei dal letto d'ospedale, no? Sì, sì, sì, sono qui all'ospedale. La devono operare? Adesso aspetto la risonanza magnetica e poi mi dicono se c'è da operare o se c'è da mettere il tutore in busto. Ma cosa è successo? È successo che noi avevamo la parata delle lepri a Cisole, nel comune di Marcheria. E lì sono venuti otto ragazzi che camminavano lungo un sentiero, ma noi non facevamo caso, abbiamo detto che forse venivano per vedere che prendevamo le lepri, perché ci sono sempre qualcheduno che viene a vedere. E tutto in un colpo, lì quando sono venuti dentro le lepri, quei ragazzi lì si sono scatenati, hanno preso le reti, le hanno rotte, e io stavo prendendo una lettera dalla rete, mi è venuto su uno di dietro che io non avevo visto e mi ha dato una ginocchiata qui nella vertebra, la 4, insomma nella schiena, e sono rimasto per terra. Sono rimasto per terra e dopo mi hanno chiamato l'autolettiga, sono venuti i carabinieri, ma loro sono scappati. Sono scappati, non sono riusciti a prenderli? No, e non abbiamo più visti. Però c'è stato uno che ha fotografato e sappiamo chi sono. E sono di Milano. Senta, un gruppo di Milano? Sì. E adesso li intercettiamo e denunciamo. Certamente. Senta una cosa, tra l'altro, perché poi qualche ascoltatore ci dice siete sempre a favore dei cacciatori. In realtà l'operazione che fate voi è un'operazione di caccia, certo, prendete le lepri perché poi evidentemente ve le mangiate, però No, quella parata lì viene fatta nelle riserve di caccia, viene prelevato un certo quantitativo e viene immesso dentro nel territorio libero che il prossimo anno andiamo a caccia. Ha capito com'è? Cioè quella è una riserva di ripopolamento e quindi l'operazione che voi stavate facendo era prendere riserva, queste lepri per portarle nei luoghi dove poi potranno essere cacciate l'anno prossimo. Il 30% va dentro ancora nella riserva e l'altro va dentro nei paesi, insomma, un po' in un paese, un po' nell'altro. Ha capito com'è? Sì, abbiamo capito. Allora, signor Zanotti, io le auguro una guarigione il più possibile presto. Spero che non debba ricorrere all'operazione. La ringrazio per aver accettato di parlare con noi. No, tra l'altro, quando ero sdraiato per terra, mi hanno detto: muori, faccia di merda. Mi hanno detto così. Così le hanno detto? Sì. E le dico, c'è anche qualche ascoltatore, tra l'altro, che scrive dicendo avrebbero dovuto ammazzarla. Mi sembra una roba da pazzi, sinceramente. Una roba da pazzi. Va bene, la ringrazio. Grazie Giuliano Zanotti. Le auguro ovviamente pronta guarigione. Prima di dare la linea a Mario Platero, consentitemi due parole, una piccola nota triste prima di chiudere questa parte della trasmissione su una persona che se n'è andata. Lo dico anche perché ci state scrivendo molti sms, molti messaggi su WhatsApp per il nostro collega Alessandro Milan. Forse lo sapete, forse non lo saprete, è morta questa notte a 42 anni Francesca Del Rosso. Forse la conoscevate come Wondi per il libro che aveva scritto qualche anno fa su come affrontare un tumore e come farlo con il sorriso. Per tutti noi era una collega, per alcuni un'amica, per altri ancora una grande amica. Qualsiasi cosa si possa dire oggi su quel sorriso e su quegli occhi luminosi potrebbe risultare retorica, e le parole più belle le ha scritte suo marito Alessandro Milan sulla sua pagina pubblica, delle parole veramente commoventi. Solo un abbraccio pubblico e personale al collega e amico del quale non riesco nemmeno lontanamente a immaginare il dolore. Platero, ci risentiamo dopo per i saluti.